i Filistei avevano radunato a Afek tutte le loro truppe, mentre Israele stava accampato presso la sorgente che è in Israel. I principi dei Filistei sfilavano per 100 e per 1000, mentre Davide e i suoi uomini sfilavano per ultimi con Achis. I capi dei Filistei domandarono: «Cosa fanno questi ebrei?» Achis rispose ai capi dei Filistei: «Questi non è forse Davide, servo di Saul, re di Israele, che è con me da 1 o 2 anni? Non ho trovato in lui niente di male dal giorno della sua diserzione fino a quest'oggi». Ma i capi dei Filistei si adirarono contro di lui e gli dissero: «Fa tornare indietro quell'uomo. Ritorni alla località che gli hai assegnato. Non deve scendere con noi in battaglia per non diventare un nostro avversario nella battaglia. Con che cosa potrà egli rientrare nelle grazie dei suoi padroni? Non è forse con le teste di questi uomini? Questo non è Davide per il quale si ripeteva il ritornello nelle danze: Saul batté le sue migliaia, ma Davide le sue miriadi?» Achis chiamò Davide e gli disse: «Per la vita del Signore, tu sei retto e il tuo comportamento presso di me al campo è gradito ai miei occhi, perché non ho trovato in te niente di male dal giorno della tua venuta da me fino a quest'oggi. Ma tu non sei gradito agli occhi dei principi. Ora ritorna e vai in pace, così non darai dispiaceri ai principi dei Filistei». Davide disse ad Achis: «Che cosa ho fatto? Che hai trovato di male nel tuo servo dal giorno in cui fui presso di te fino a quest'oggi per non venire a combattere contro i nemici del re mio signore?» Achis, ripresa la parola, disse a Davide: «Capisco, tu sei accetto ai miei occhi come un angelo di Dio, ma i capi dei Filistei hanno detto: non deve salire con noi in battaglia. Levati domattina presto con i servi del tuo padrone che sono venuti con te e andate al luogo che vi ho assegnato. Non far caso a questa faccenda, perché tu sei accetto alla mia presenza. Domattina alzatevi presto e allo spuntare dell'alba andatevene». Davide si levò di buon'ora insieme con i suoi uomini per partire nella mattinata e fare ritorno al paese dei Filistei. I Filistei invece salirono a Israele.